tessa, miri tessa, miri tessa, miri tessa, miri tessa, miri tessa, miri tessa. Miri tessa, miri tessa, miri tessa, miri tessa.